sicuramente non è frutto di fatalità, non è l'unica, non sarà l'ultima purtroppo e non riguarda assolutamente la fatalità o il caso, è una conseguenza inevitabile e consapevole, anche se non è consapevole la responsabilità, delle politiche che sia l'Italia sia l'Europa da anni ormai mettono in atto nei confronti del fenomeno migratorio, pur essendo ormai oggettivo e noto a tutti, destra e sinistra non fa differenza, che la migrazione non è un fenomeno estemporaneo, è un fenomeno storico, è dettato dalla necessità di sopravvivere a vari fattori di rischio, dalla guerra ma anche dalla fame. Quello che il governo italiano e l'Europa non stanno facendo è di governare razionalmente questo fenomeno, impedendo l'ingresso regolare, perché questo è il tema. Non è le parole d'ordine che stanno uscendo dal governo, dobbiamo fermare le partenze. Già questo è un errore di fondo, perché fermare le partenze vuol dire consegnare le persone che hanno bisogno di fuggire dai loro paesi ai loro aguzzini, piuttosto che alla morte per fame o altre gravissime violazioni dei diritti umani. Pensiamo che fra le persone morte in questo ultimo naufragio ci sono molti dall'Afghanistan, dall'Iraq, dall'Iran, dalla Siria, persone che noi non vogliamo far arrivare in Italia, ma anche in Europa, ma soprattutto in Italia, non le vogliamo far arrivare regolarmente con dei visti, non le vogliamo far sottrarre ai trafficanti, al rischio di morte nelle rotte terrestri così come nelle rotte marittime. Per cui quello che di nuovo è in gioco è la grandissima ipocrisia, ma io parlo anche di responsabilità colpevole delle istituzioni. Quindi è la politica dell'esternalizzazione delle frontiere a produrre anche partenze illegali. Esatto, è la politica dell'esternalizzazione delle frontiere e insieme a questo, ovviamente come conseguenza, l'impossibilità legale di entrare con un visto regolare. Per fermarci all'Italia senza dire è colpa dell'Europa oppure l'Europa deve prendersi la responsabilità, che è sicuramente un argomento da porre, ma questo non significa che l'Italia si possa sottrarre alla sua responsabilità, perché oramai da un decennio ci sono pochissimi decreti flussi. Cosa sono i decreti flussi? Sono uno degli strumenti per far entrare regolarmente le persone in Italia per acquisire poi un permesso di soggiorno per lavorare nei vari moltissimi settori nei quali non si trovano lavoratori e lavoratrici italiane. Ora, se l'Italia non fa degli adeguati decreti flussi non limitati a pochissimi settori produttivi, è chiaro che le persone che hanno bisogno di muoversi per le ragioni che dicevo prima dal loro paese trovano degli altri modi per arrivare. Peccato però che questi modi li espongano al rischio di morte, oltre che al rischio di subire delle violenze anche nella civilissima Europa. Pensiamo per esempio alla rotta balcanica, alla rotta terrestre, dove tra Croazia, Bosnia, Slovenia, Austria e anche Italia vengono operati sistematicamente respingimenti di persone che sono in evidente bisogno di protezione. Ripeto, sono afghani, sono iracheni, sono iraniani, sono siriani, sono persone che per questi paesi fuggono da guerre, da conflitti, da torture, da violazioni inconcepibili dei diritti umani. Per quanto riguarda il tema dei soccorsi, le ONG denunciano che l'ultimo decreto del governo, in particolare con l'assegnazione di porti molto distanti, come dire, inevitabilmente porta all'aumento di queste tragedie. Certo, inevitabilmente e oggettivamente porta all'aumento di queste tragedie, perché nel momento in cui tu allontani quelle poche navi umanitarie che si dedicano al salvataggio delle vite in mare, è chiaro che nessuno osserva quello che succede nel Mediterraneo. E inevitabilmente nessuno le salva. La cosa estremamente vergognosa e colpevole è che in quest'ultimo naufragio Frontex aveva già visto la situazione di pericolo di naufragio 24 ore prima che la nave si spezzasse e che facesse tutti questi morti. Perché non è stato attivato effettivamente il soccorso? La Guardia Costiera, la Guardia di Finanza credo, non la Guardia Costiera, dice che loro hanno provato a uscire capire e a raggiungere questa imbarcazione che stava andando alla deriva con centinaia di persone, e poi sono tornati indietro per le condizioni del mare. Questo è stato smentito non dalle ONG, non dai cosiddetti buonisti. L'impossibilità di operare il salvataggio è stato smentito da persone, anche ex della Polizia di Stato, che nel corso degli anni hanno effettuato dei salvataggi e secondo loro, e io non ho motivo per dubitare visto la loro competenza, ci sono delle navi che anche a forza 8 del mare riescono a operare i salvataggi, perché così è successo in altre occasioni, cioè la Marina italiana ha le navi per operare anche quando il mare è cattivo. Perché non è stato fatto? Perché non è stato lanciato l'allarme di effettuare il soccorso? Pare peraltro che non sia stato allertato il pericolo all'interno delle procedure di salvataggio SAR, quelle che tecnicamente vengono chiamate proprio operazioni di salvataggio di persone a rischio di naufragio. Per cui ci sono delle precise responsabilità che dovranno essere accertate dalla magistratura, perché non si può parlare di fatalità ogni volta.